Ma te chi sei? Rosencrantz o Guildenstern? Julian è uguale, uno là tanto si deve imparare a recitare che prima parte prima che... sì, dai, anche perché lo spettacolo non sarà tanto tanto lontano alla fine, quindi boh, impariamo, è uguale. Io fo Guildenstern e io faccio il Rosencrantz, che giocavo Stern da ragazzo. Allora ora basta di dire fregnacce, voi due c'è da mettersi a lavorare sul serio, lo sapete o no, ve lo ricordate o no che ci hanno chiamato per fare quel famoso spettacolo di beneficenza? E è chiaro, siccome è beneficenza hanno scelto la deficienza, ossia a noi toccherà fare una parte teatrale e di natura comica, e siccome non siamo abituati a recitare in pubblico, anche se siamo abituati a dire parecchie bischerate, a questo punto tocca imparare a recitare e soprattutto imparare a recitare dei dialoghi teatrali a un buon livello. Allora si prova? Ma io ci provo, dai. Sfida accettata. Vi do alcune indicazioni tanto per farvi calare nella parte. Allora, Rosencrantz e Guildenstern sono due personaggi dell'Amleto di Shakespeare. Nell'Amleto loro sono degli amici di infanzia di Amleto e sono stati incaricati dal re padre di Amleto di seguirlo e di capire se Amleto realmente ha perso la stagione oppure no. Nella tragedia di Shakespeare Rosencrantz e Guildenstern sono, chiamiamola, la linea comica, ma il dialogo che ho scelto per fare esercizio non è un dialogo preso dall'Amleto in senso stretto, ma da un film che si intitola Rosencrantz e Guildenstern sono morti, è un film del 1990 e è stato scritto e in qualche modo riadattato dall'Amleto da Tom Stoppard, che è un regista e autore teatrale anche molto famoso negli Stati Uniti. Il dialogo è ripreso dal film. Siete pronti? Va, io sì, dai, sì, ci dai. Si prova. Vi siete divisi le parti? Sì. Io fo Guildenstern. E io faccio Rosencrantz. Sì, tu c'hai anche la faccia da Rosencrantz. Grazie. E allora, cara faccia da Rosencrantz, tocca a te! Ti va una partita? Siamo spettatori. Facciamo il gioco delle domande? E come si gioca? È semplice, si fanno delle domande. Affermazione, 1-0. Non vale. Perché? Non avevo ancora cominciato. Altra affermazione, 2-0 per me. Ma conti tutto? Come? Conti tutto? Fallo, niente ripetizioni, 3-0, partita per me. Tiè. Vabbè, io non gioco se continui in questo modo, eh. A chi il servizio? Esitazione, 0-1. A chi tocca? Perché? Perché no? Perché cosa? Fallo, niente sinonimi, uno pari. In nome di Dio, ma che succede? Fallo, domanda retorica, e quindi 2-1. A che equivale tutto questo? Non lo indovini? Ma stai parlando con me? C'è qualcun altro intorno? Chi? Io ne so, scusa. E lo chiedi a me? Fai sul serio? È una domanda retorica? No. Negazione, 2 pari, punto e partita. Ma che ti prende oggi? Quando? E cosa? Sei sordo? Sono morto? Sì o no? C'è scelta? C'è Dio? Fallo. No, niente teologia, no. 3-2, una partita a testa. Come ti chiami? E tu come ti chiami? Prima tu. Affermazione, 1-0. Come ti chiami quando sei a casa? E te come ti chiami? Quando sono a casa? Perché è diverso a casa? Quale casa? Che non ce l'hai? Perché me lo chiedi? E dove vuoi arrivare, scusa? Come ti chiami? A ripetizione, 2-0 e punto partita. Ma chi credi di essere? Domanda retorica, partita e incontro per me. Ecco, ti pareva che dovessi perdere con questa faccia da Rosencrantz? Ah, ragazzi, avete fatto proprio schifo, ma non vi vergognate, ma recitate con i piedi, siete due cani, io me ne vado! Ma dove è andato? Si è arrabbiato davvero? Ma Dio, ma che si doveva fare? Eppure a me mi sembrava che se stai tanto bravi. Mi sa che bisogna studiare di molto. Qui c'è da studiare, vai. Mamma mia, sta pensiero, qua. Adesso siamo proprio nei pasticci. Come faremo con quelle due galline scornacchiate? Ma dove andiamo? Lo spettacolo si farà, vai, ma invece che ridere delle battute, rideranno di noi. E poi giù fischi. Io lo sapevo, me lo sentivo, ve l'avevo detto. No, no, no. Ah, ma a me non mi ci rifregano, eh? Aspetta, aspetta. Ci sarebbe quella sgallettata della radio. Ma sì, dai, come si chiama? C'ha un nome, sembra un supereroe, tipo Lisa Erika Castello, Eloisa Ellenica Carpaccio. Ma questi cognomi che non finiscono con la I. Aspetta, aspetta, la recupero dal gruppo della radio. Ecco qua, Elisa Elena Corbello. I monologhi esteriori. Ma che? Una terapia di gruppo. Vabbè, vediamo se risponde. Pronto? Parlo con Elisa Elena Caracciolo. Scusi, sarebbe Elisa Elena Carollo. Ma chi è lei? Ma io sono una specie di suo collega di Radio Big World, e che, vabbè, faccio il custode a Radio Big World, ma diciamo che siamo un po' colleghi di lavoro. Va bene, piacere. Senta, signora Caralla, senta, signora Carrà, noi avremmo un problema. Mi dica come la posso aiutare. Il nostro problema è che abbiamo da fare uno spettacolo di beneficenza e avremmo da in qualche modo interpretare dei personaggi, ma siamo piuttosto scarsi a interpretazioni teatrali e abbiamo trovato il suo nome... Uno spettacolo teatrale? Sì, una specie. Abbiamo trovato il suo nome nell'elenco degli speaker di Radio Big World. Sappiamo che lei si occupa di teatro, magari è disposta a darci una mano. E avete qualche esperienza di teatro oppure zero? Beh, se fare gli imbecilli in piazza siamo in grado di definirlo teatro, beh, su quello siamo espertissimi. Sul palcoscenico, ecco, siamo un po' carenti. Ok, no, il teatro sarebbe una cosa diversa, molto diversa da fare gli imbecilli in piazza. Però vediamo cosa si può fare. Mi dica di questo spettacolo. Ma non lo so esattamente, ci hanno detto che c'è da interpretare delle parti, che ancora gli autori sono al lavoro, che la data non è stata ancora definita, pertanto forse abbiamo un po' di tempo, ma... E almeno questa è una cosa positiva, abbiamo tempo per lavorarci. Vabbè, il teatro, sono quattro strulli su un... palco con delle maschere in faccia che dicono stupidaggini, sarà facile imparare. Aspetti, guardi che per fare teatro bisogna studiare, è una cosa seria, ma lo sa quanti anni ho studiato io per arrivare a questo punto? Ma va, ma studiare si studia a scuola, lì uno va sopra, dice due fregnacce, la gente applaude e finisce lì, non sarà una cosa complicata, via. Non guardi, no, se il suo atteggiamento è questo, io già mi rifiuto di aiutarla. Io ho bisogno di gente che vuole imparare, altrimenti non si può fare niente. Ah, ok, comprendo. D'altra parte, il tempo stringe e noi siamo con l'acqua alla gola. Accettiamoci, dica quello che abbiamo da fare. Siete disposti a studiare, ad impegnarvi? Ok, sì, siamo disposti a farlo, ci stiamo. Va bene, allora vi darò degli esercizi da fare ogni settimana e mi raccomando, bisogna farli come se fossero i compiti di scuola. Non valgono scuse come me l'ha mangiato il cane. E se la scusa fosse che sabato no. siamo abbiamo fatto troppa festa e quindi non ci no. siamo alzati? No, niente scuse, neanche una. Una volta alla settimana vi voglio sentire recitare i vostri compiti e fatti bene. Lei non parla proprio toscano, ma di dov'è? Io sono del Veneto, ma ho studiato dizione, sa? Mamma mia, una del nord, ci siamo messi nelle mani di qualcuno che è in grado di cucinarci come una polenta. Ma no, non siete mica gatti, non dovete preoccuparvi. E la dizione ce la insegna anche a noi? Ma sì, certo, già che siete toscani partite da una buona base, poi qualche C aspirata si può togliere. Dovrete lavorare un pochettino anche lì. Allora, signora Carollo, signora maestra, quando cominciamo? Come quando cominciamo? Subito. Ok, subito al lavoro, ritorno dentro e lo dico ai ragazzi. E aspettiamo il primo testo teatrale da interpretare. Certo, adesso scelgo qualcosa che fa il caso vostro e ve lo mando. Mi raccomando, subito al lavoro, con impegno e senza scuse. Al lavoro!